cartellone di Elisabetta Fiorito. Così? Stupida! Stronzo! Non sai che piacere si prova a sentirsi una donna stupida tra le braccia di un intellettuale negro. E non sai che fatica si fa per diventare stupida. Lo sforzo di intelligenza che ci vuole. Altro che droghe, là il viaggio incosciente. Ma questo per diventare stupida è una lotta continua con la tua coscienza. E un liberarsi di tali ingombri che spesso il viaggio non riesce. Io ce l'ho fatta. Persone naturali e strafottenti, sì, un testo di Padroni Griffi che è al Teatro Franco Parenti di Milano fino al 9 maggio e forse l'avrete riconosciuta perché interprete principale di questo spettacolo dalla regia di Luciano Melchionna è proprio Vladimir Luxuria. Buongiorno Vladimir e buongiorno Luciano. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Vladimir, che cosa significa interpretare una donna anche un po' particolare, se non dire un po' antipatica da quello che abbiamo sentito alle battute? No, anzi, avete tratto, credo, forse il monologo più importante, perché è una persona che è consapevole che c'è tanta cattiveria all'esterno e che c'è una guerriglia che deve fare per difendersi e quindi ha deciso che il metodo per soffrire di meno è diventare stupida, cercare di non essere una spugna che assorbe le ostilità esterne, ma cercare di diventare impermeabile alle cattiverie. La grande aspirazione di una persona emarginata è quella di cercare di soffrire di meno diventando stupida. Ma lei nella vita ha mai dovuto fingere di essere stupida? Perché ce la ricordiamo a Montecitorio, quando anzi partecipava ad un altro programma, la Quota Rosa, eccetera, quando faceva dei discorsi un po' consistenti, quindi non mi sembrava stupida all'epoca. Ma io sto interpretando un ruolo molto diverso da Vladimir Luxuria. In questo devo veramente ringraziare il lavoro che ho fatto con Luciano Melchionna. Ho dovuto sottrarre molto. Io non sono la persona di successo in questo spettacolo, non sono una trans famosa, non sono una ex parlamentare, niente, sono un outsider, sono una borderline, sono una povera disgraziata che vive nella miseria, che cerca sia di andare avanti economicamente facendo quello che può e anche cercando di trovare compagnia, vivendo una solitudine tremenda, non sapendo neanche con chi trascorrere la notte di Capodanno. Quindi per questo, voglio dire, il fatto che io dica qui che la mia massima aspirazione è di diventare stupida non corrisponde a Vladimir Luxuria, che magari stupida già lo è diventata. Vabbè, no, ora non vogliamo entrare in varie trasmissioni televisive che l'hanno vista addirittura vincitrice. Luciano Melchionna, buongiorno e bentornato prima di tutto a Cartellone, visto che è appena finito Dignità Autonome di Prostituzione al Quirino a Roma e invece c'è questo testo, un testo di Patroni Griffi del 1974. È ancora attuale, Luciano, e perché? Assolutamente sì. Intanto, guarda, ti dico appunto, ho avuto il cuore spaccato a metà, una parte al Quirino fino a ieri sera e l'altra parte mi continua a vivere. E a papà non ti preoccupare, arrivo presto, vengo a prendermi cura di voi, Vladi. Vi ho abbandonato. Li ho abbandonati per pochi giorni, ma torno subito. Scusatemi la voce, sono raffreddatissimo. È un testo di grandissima attualità, io volevo agganciarmi al discorso fatto adesso da Vladimir. Immaginate la mia fatica per riuscire a far essere un po' stupida Vladimir Luxuria e soprattutto, e qui tocco un tema scottante però ci tengo, io ho iniziato le prove con una donna, ormai Vladimir è una donna, una signora raffinatissima, abbiamo dovuto fare un lavoro difficilissimo affrontato con grandissima professionalità dalla signora Luxuria che è un'attrice a tutto tondo e devo dire che è di un'attualità sconcertante il testo, anche perché io ho asciugato, edulcorato se vuoi, abbiamo tolto le nudità, tutto quello che negli anni 70 potevano essere veramente degli scossoni di grande scalpore. Eppure la parola, il gesto che suggerisce Patroni Griffi riescono a far alzare ancora qualcuno dalle poltrone, e di questo andiamo molto fieri. Se ne vanno scandalizzati. Allora sentiamo un altro pezzettino dello spettacolo. I ragazzi io li ho cominciati a frequentare a 14 anni ed è sempre stato emozionante. Stasera una delusione, una rovina. Io non ho provato niente. Sì, va bene, forse solo al primo bacio, ma poi... Ma due che vanno a letto insieme vogliono piacersi, amarsi! Tra due uomini è una lotta. Alla pari! Tu mi hai trattato come se fossi una donna. Sono abituato alle donne. E anche le donne non sono cavalli da domare. Non vorrai tenermi una lezione sul sesso? Ognuno il sesso se lo scopre e se lo educa da solo! Io non ho tempo per il sesso! Tu lo bruci! Io ci vivo! Vivere per il sesso è un'attitudine razionale che rincretinisce! E vivere per l'odio! Io me ne sono accorto! Tu non fai l'amore, no! Tu fai odio! Appassionato! Odio! Insomma, pure fare l'odio, magari ci si riuscisse ogni tanto. Luciano, questo è Daniele Russo, l'altro attore, sì, no? Strepitoso attore. Che interpreta... Fred, il giovane che viene, come dire, a immergersi nelle ferite degli altri emarginati perché vive una vita bene, nella bambagia, e sente e crede di non esserci, di non avere le proprie ferite, per cui l'avrà anche simbolicamente, ma l'avrà anche fisicamente, e questo è uno dei momenti più drammatici. Avviene fuori scena, nell'intervallo tra un tempo e l'altro, però... porta le conseguenze in scena nel secondo atto, questa ferita, questa violenza, e devo dire che ancora oggi, sia fisicamente che simbolicamente, fa un grandissimo scalpore. Vladimir Luxuria, che cosa vuol dire il rapporto con il pubblico a teatro dopo essere stata in televisione e poi soprattutto anche in Parlamento? Insomma, qual è la differenza? Ho imparato a essere strafottente, un po' come il titolo della PS, e quindi a non interessarmi del contenitore, ma del contenuto. Cerco di dire delle cose, a volte col linguaggio della politica, a volte col linguaggio artistico, cercando di emozionare, e non mi interessa il contesto in cui le dico, mi interessa soprattutto continuare a avere un pensiero e qualche capacità da dimostrare a un pubblico, che possa essere un pubblico di elettori prima e un pubblico di un teatro adesso. Ma adesso lei sta nel metrò praticamente, nel famoso metrò milanese? Esatto, sono una donna del popolo. È una donna del popolo. Vabbè, Luciano Melchionna, abbiamo sentito Vladimir Luxuria, prende i mezzi, abbiamo questa notizia, abbiamo finalmente uno scoop. Allora, sì, è una donna semplice, Vladimir. È una donna semplice. Allora, persone naturali e strafottenti sul palcoscenico, ma semplici nella vita, come abbiamo sentito, fino al 9 maggio al Teatro Franco Parenti di Milano, un testo di Patroni Griffi, regia di Luciano Melchionna, che abbiamo detto ha chiuso ieri al Quirino anche Dignità Autonome di Prostituzione, con Vladimir Luxuria e Daniele Russo. Grazie Vladimir, grazie Luciano. Diciamo grazie anche a voi. Maria Luisa Santella e Timothy Martin, sono quattro protagonisti in scena. Perfetto, il regista giustamente ci... ci riprende. Grazie. Grazie signori, e permettetemi di augurarvi... Dove diavolo ho messo il mio orologio? Questo poi. Una magnifica cipolla, signori! Segnava perfino i secondi, me l'ha regalato il nonno! Può darsi che mi sia accaduto. Questo poi. Forse ce l'ha l'assassino. Andiamo. Non sento niente, guardate anche voi. Si dovrebbe sentire il tic-tac. Silenzio! Io sento qualcosa. Dove? È il cuore. Merda. Silenzio! Forse si è fermato. Aspettando Godot di Samuel Beckett, in scena al Teatro Mercatante di Napoli, con Peppino Mazzotta che interpreta Vladimiro, no? In contrapposizione con Estragone. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, dalla televisione, dall'ispettore Fazio di Montalbano, un uomo che invece attende senza cercare nulla, o forse cercando la verità. Sì, questi due vagabondi aspettano Godot, che poi in qualche modo è anche il pretesto per farli andare avanti, sostanzialmente, e non impiccarsi come spesso cercano di fare e poi rinunciano, insomma. Per cui, insomma, l'incontro con un autore come Beckett per un attore è un incontro importante, perché è un autore straordinario, di estrema sapienza, che ti fa crescere inevitabilmente, per cui sono molto contento, poi ci divertiamo molto, per cui insomma va benissimo. Ma qual è la contrapposizione tra Vladimir e Estragon, cioè tra Vladimir e Stragone? Quali sono le caratteristiche di questi due personaggi che sembrano poi sempre uno lo specchio dell'altro, oppure un attore li vive in maniera diversa? Ma sicuramente sono in effetti due facce di una stessa medaglia, però hanno anche delle diversità, nel senso che Vladimiro è un individuo o rappresenta tutti quegli individui che cercano di ragionare, insomma, che hanno proprio un grande amore per la parte razionale, per cui cercano sostanzialmente di darsi delle spiegazioni, e per il quale in qualche modo il tempo esiste, quindi c'è un prima, c'è un durante, c'è un dopo, anche se non c'è certezza, ma insomma c'ha questo tipo di approccio, mentre Stragone è quello che sostanzialmente ha un approccio molto più istintivo, è molto più legato al corpo, al suo corpo, che tra l'altro gli fa male perché c'ha male al piede, si addormenta spesso e soprattutto non ricorda, cioè qualsiasi cosa fa la dimentica subito dopo, per cui ci sono, diciamo, due atteggiamenti molto precisi, poi che vengono in qualche modo formalizzati anche da Beckett, perché mentre Vladimiro ha un problema col cappello e con il prurito in testa, e quindi in qualche modo la metafora del pensiero, della ratio, Estragone ha male ai piedi, quindi esattamente, diciamo, nella parte opposta del corpo. Quindi sono queste le due, diciamo, differenze più sostanziali, poi ovviamente ce ne sono tante altre, però poi si muovono in qualche modo come una coppia che appunto rappresenta due facce di una stessa medaglia, quasi uno stesso individuo sostanzialmente. Giovanni Ludeno è Estragone, giusto? Sì. E chi c'è in scena? C'è Pierre Chilton che fa Pozzo o Pozzo, dipende da come lo si voglia pronunciare, e Fabio Bussotti che invece interpreta Lucky. Certo, e ovviamente Godot non interpreta nessuno. E infatti qui la volevo qui, che arrivano i bambini. Perché un bambino, che in effetti poi per noi sono due perché si alternano, però è sempre un bambino. E perché aspettando Godot, sempre al Teatro Mercatante di Napoli, diventa anche uno spettacolo per bambini. Beckett per bambini è un bel coraggio. Allora, l'adattamento e la regia è di Fabio Cocifoglia, ma sentiamo un brano dello spettacolo. Avanti! Avanti! Giro! Giro! Fermo! A terra! Là! E lui chi? Beh, Godot! Appunto! Mi presento! Pozzo! Niente affatto! Ha detto Godot! Niente affatto! Lei non è il signor Godot! Io sono Pozzo! Pozzo! Questo nome non vi dice niente? Vi ho chiesto se questo nome non vi dice niente. Bozzo, bozzo. Pozzo, pozzo. Pozzo! Ah, Pozzo mi faccia pensare, Pozzo. Ma è Pozzo o Bozzo? Pozzo, no, proprio non ricordo. Noi non siamo di qui, signore. Ma siete pur sempre degli esseri umani, a quel che vedo. Della mia stessa specie. Beh, vediamo proprio come si gioca invece Fabio con un po' l'equivoco, no? Quindi diventa tutto molto clownesco. Oserei dire, o sbaglio? Buongiorno. Ma, buongiorno, buongiorno. In realtà, allora, il gioco che è stato fatto, stavo cercando di non, appunto, non spiegare per quanto fosse complesso il tema, ma un tentativo è stato fatto nello scomporre il linguaggio beckettiano. Infatti, la sfida intanto è quello di raccontare la storia in tre personaggi. Abbiamo quindi Vladimiro, Estragone e Pozzo soltanto. E però, avendo già debuttato con lo spettacolo, avendo già avuto un confronto con i ragazzini, con i bambini, sono stati anche confortati dalla loro risposta, al loro modo di reagire, di raccontare, di relazionarsi allo spettacolo. A volte forse li sottovalutiamo, ma certi temi, certe relazioni proprio umane che vengono fuori soprattutto dalla relazione tra Vladimiro ed Estragone li coinvolgono molto e si sentono molto partecipi. Tra l'altro tutto viaggia su categorie come tenerezza, no, solidarietà tra i due, a volte rabbia, a volte dipendenza, quindi tutte cose riconoscono, a volte magari un rapporto con i fratelli, o ci riconoscono dei genitori, o comunque due persone che indissolubilmente in qualche modo devono stare insieme. E voi quando andate in scena praticamente vi alternate, vi alternate con lo spettacolo per adulti? Esatto, ci alterniamo in contemporanea, perché il progetto prevede proprio che mentre i genitori sono giù a vedere lo spettacolo appunto dei grandi, i ragazzi sono a vedere lo stesso spettacolo chiaramente adattato per loro, e dopo a seguire c'è anche un piccolo laboratorio con loro di intrattenimento finché non finisce lo spettacolo, perché il Godot per ragazzi dura un'ora e 16 minuti, quindi tutto si sviluppa in un tempo diverso, e nel frattempo mentre i genitori continuano a vedere lo spettacolo restano sopra con gli operatori della compagnia che li trattengono anche con un laboratorio. Quindi insomma c'è proprio un alternarsi, si può andare a teatro, Peppino, si può andare a teatro per vedendo il vostro spettacolo e poi i bambini ne vedono un altro, quindi cioè c'è questa c'è questo sincronismo, no? E qual è la battuta che le piace di più di Vladimiro? Difficile da dire, ce ne sono tante. Ce n'è una che Vladimiro dice al bambino, gli chiede, dice: non sei infelice? Il bambino risponde: non so. E lui gli dice: ma non sai se sei infelice oppure no? E il bambino dice: sì. E Vladimiro risponde: come me. Aspettando Godot, abbiamo sentito Peppino Mazzotta che dopo i successi nella serie Montalbano interpreta Vladimiro al Teatro Mercatante di Napoli, quindi con il teatro fino al 9 maggio, e un spettacolo doppio, perché c'è la possibilità di andare a vedere Aspettando Godot per bambini e Aspettando Godot per adulti nel stesso momento. Grazie a Fabio Concifoglia e a Peppino Mazzotta. L'acqua non è bagnata, ebbene con l'arma dell'ottimismo l'acqua diventerà asciutta, anzi, vi dirò di più, diventerà solida. Io la vedo già, la fattoria del futuro, dove le acque saranno solide e gli animali potranno camminare sopra le acque. Io lo faccio già da un po' di tempo, ma anche voi, se volete, potrete camminare sopra le acque. Comunque, se mi voterete, vi prometto che l'acqua non sarà più bagnata, anzi, invierò ad ogni cittadino della Fattoria Democratica un telecomando affinché ognuno possa digitare il tempo che desidera. Questa è la libertà, votate il porcile della libertà. La Fattoria Democratica, un racconto satirico con e scritto da Leonardo Montagnani fino al 16 maggio al Teatro dell'Orologio a Roma. Uno spettacolo per denunciare il malessere della nostra società. Sì, io sono partito leggendo il libro di Orwell, La fattoria degli animali, e poi ho cercato di rubare, tra virgolette, l'idea a Orwell e riscrivere un testo che invece sia attuale per vedere quali sono i maiali moderni. I maiali moderni, secondo te, sono poi politici, però? Sì, diciamo che c'è un po' una satira sulla politica, sulla libertà di informazione, sul fatto che, vabbè, sicuramente la fattoria che descriveva Orwell non era democratica, si trattava di una dittatura, però il grande punto interrogativo è invece questa nostra fattoria a forma di stivale è così democratica oppure no? Allora, è una satira contro il governo o contro tutto il mondo politico distaccato dalla società? No, è una satira contro il potere in generale, diciamo. Infatti anche a livello di scenografia abbiamo praticamente due volti sullo sfondo che rappresentano appunto in maniera simbolica maggioranza e opposizione, che però poi alla fine sono uniti dal fatto di essere tutti parte di un... ora, senza generalizzare, poi però diciamo che la satira riguarda un po' tutti. Quanti personaggi ci sono? E quanto dura lo spettacolo? Credo che questo dell'orologio è il debutto, oppure avete già rappresentato questo spettacolo? No, abbiamo già rappresentato lo spettacolo, ma era una cosa un po' diversa, diciamo, da quello che invece ha debuttato qui a Roma, quindi è stato modificato. Ora, si tratta sempre di un monologo, Chiaramente un monologo dove però prenderanno la parola molti personaggi dell'attualità, politici, non solo politici, anche giornalisti, alcuni personaggi dello sport, quindi gli animali, diciamo che è diciamo un gioco che si fa con il pubblico in cui si parla di una fattoria lontana, ma che poi ha molte similitudini con il nostro paese. E quindi i personaggi non sono mai indicati con il nome vero, diciamo, ma è tutta una metafora, e quindi si usa dei nomi inventati, però le caratteristiche fisiche, caratteriali, così la gente capisce subito di chi si parla, insomma. E adesso un ragazzo di 23 anni oggi in Italia, in che cosa crede, visto che tu hai fatto questa bellissima satira sul nostro paese? Sono molto critico per quanto riguarda i miei coetanei, anche se comunque sia è un problema generale, quindi è una conseguenza principalmente. Comunque lo spettacolo è una cosa molto divertente. Faccio delle imitazioni, però siccome ci sono molti imitatori in questo periodo, quindi non volevo fare uno spettacolo di cabaret dove facevo imitazioni così, perché ce ne sono troppi anche. Sta nel limbo. Va bene, allora basta vederlo. Leonardo Montagnani, abbiamo sentito giovanissimo, 23 anni, con questo spettacolo al Teatro dell'Orologio a Roma, La Fattoria Democratica, ispirato liberamente, molto liberamente ispirato a George Orwell, fino al 16 maggio. Della nostra gioventù, sarà perché in quel momento sembrava che tutto fosse possibile. Sarà che bastava cotonarsi i capelli, mettersi quattro strass, le spalline, anzi le triple spalline, perché c'erano le spalline nelle camicie, le giacche nei cappotti. Sarà quel che sarà, ma gli 80 sono stati proprio, come dire, il tempo un po' della spensieratezza, soprattutto per la musica, i Duran Duran, gli Wham, i ricchi e poveri, Whitney Houston. Allora, per rinnovare questa voglia, 80, voglia di 80, appunto, fino al 16 maggio al Teatro Parioli di Roma c'è una sorta di musical, perché una compagnia di 12 scatenati performance, leggo dalla nota di regia, e una live band di 5 elementi. Buongiorno Paolo Ruffini, che è il regista di tutta 80, voglia di Buongiorno, 80, buongiorno, nonché ci sono, ci sono. interprete. No, interprete, interprete, la regia di Interprete, interprete. Fabrizio Angelini, che è Aia, aia. molto più audace, tecnico, preciso di me. Io sono diciamo, un intrattenitore di livello, insomma, spero gradevole. Lui invece è un regista davvero di musical vero e proprio, e ha accettato proprio Fabrizio di questa sfida e questa anomalia straordinaria di dirigere e di curare la regia di un musical dove c'è il protagonista che non canta e non balla, ma è sempre in scena. Già questa, guarda, è un'anomalia abbastanza curiosa, no? Paolo, Perché allora tu sei in scena con Claudia Campolongo e che sì. cosa fate in particolare? A parte ballare e cotonarvi i capelli, come ti ricordi che belli gli Wham abbiamo sentito, no? Esatto, Avevano insomma, Wake George Me Up Michael, aveva Before You questo. Go Go, che tra l'altro c'è nel musical. Il musical è proprio Certo. una carrellata di successi degli anni 80 e una carrellata anche di cose, perché ci siamo accorti che fare un musical sugli anni 80 è comunque fare anche un musical in costume, e anche se erano 20 anni fa, insomma, ci si sognavano le mail, i cellulari, Sky e un sacco di comodità che ci sono adesso, e se si voleva fare una telefonata c'era il gettone, c'erano le sue E imprese del mulino bianco, le segreterie telefoniche c'erano allora. le No, ma segreterie io telefoniche, poi mi ricordo i capelli le erano bellissimi. Non ti ricordi che George Michael aveva 2 cm centimetri in più, 3 centimetri in più, grazie alla ai capelli fonati, no? Aveva la fofata, la tipica fofata di chi c'ha i cerchi pitechi in testa. E fra l'altro ti ricordi quando ho visto Siamo in Radio, si diceva ti fo la cassetta, ti faccio la cassetta. È vero, c'era le cassette. Dovevi avvolgere con il lapis, ti ricordi? Sì, perché si incastravano sempre queste cassette. Allora, noi ti facciamo un piccolo quiz. Ti mettiamo una o due canzoni e tu ci dici se ci sono o non ci sono nel musical. Attenzione! Paolo, c'è questa per esempio? Cioè, Fantastic Dieta. Disco Bambina non c'è, purtroppo Disco Bambina non ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo Cicale. Mannaggia. Ah, vabbè, insomma, tanto erano tutti uguali, insomma, ora noi non lo vogliamo. Adesso un'altra, vediamo. I Duran ci sono? Ma che Duran non ce li abbiamo, però ti posso dire che ci abbiamo gli Wham, vabbè, no, non ci si poteva, no, sennò tutti capirai, no, ma non aspettavo di 40 ore, era impossibile. Mannaggia, ma noi saremmo venuti a ballare. Ma no, ma ci sa comunque Ricchi e Poveri, ci sa Madonna, vabbè, per non dimenticarsi di Michael Jackson, Dio buono, vai a prendere Duran, noi guarda, ci abbiamo tutti i riferimenti proprio anche che si sono spenti magari ultimamente, Albano e Romina che si sono scoppiati, li abbiamo fantastici, felicità, ti ricordi? Felicità. Felicità ce l'abbiamo. Erano fantastici. No, ma ce l'abbiamo tantissime, ci abbiamo Cicale, ci abbiamo Jump di Van Allen, ci abbiamo un sacco Madonna con Material Girl, ci abbiamo un sacco di successi, tutti eseguiti dal vivo, e il pretesto qual è? È questa storia che si rifà un pochino a Ritorno al Futuro, ovvero io che sono uno studente non proprio modello, vado a verificare se l'ultimo giorno di scuola i miei quadri sono buoni o cattivi, fatto sta che incontro i miei professori, magicamente, prendendo un cubo di Rubik in mano, mi ritrovo ad aver voglia di cambiare tutto e dico che ho tanta voglia di cambiare la mia vita, ho tanta voglia di cambiare la mia scuola, ho tanta voglia di 80, mi catapulto negli anni 80 dove i miei professori hanno la mia stessa età e magari li aiuterò anche ad affrontare questo concerto dell'ultimo dell'anno e quindi anche ad innamorarmi di una mia professoressa di educazione musicale e aiutarli anche ad essere professori un po' meno carogne magari nel futuro. Comunque il finale non ve lo svelo, è una, no, non ce lo svelare, diciamo, un'occasione davvero tipo Ritorno al Futuro, insomma è 80 anche nella narrazione, 80 anche nella struttura, questo spettacolo che è stato scritto anche da Gianfranco Vergoni, quindi sono molto contento di portarlo a Parioli e spero che vi possiate divertire, magari anche coloro che negli anni 80 ragazzi erano, o alcuni non erano ancora nati, quelli che hanno 18 anni oggi o 20 anni oggi, sono del 90 e rivivranno questo decennio che più che di idee era fatto di cose, no? Nel senso che c'erano un sacco di cose, se ti ricordi come prima citavi te e gli strass, delle cose di paillette, delle pettinature strane, eppure c'era a livello embrionale tutte le cose che stiamo vivendo anche ora, non ma ci sapeva, ecco, penso. Ti ricordi Marco? 500, però ci sapeva, per esempio, le fotografie digitali erano istantanee anche per noi con la Polaroid, no? Certo. Le BMX, i giochi da tavolo, l'Allegro Chirurgo, le felpe della Best Company, mi ricordo proprio degli status symbol che erano orrendi e meravigliosi allo stesso tempo. Ma ti ricordi per esempio in TV Marco Predolin il gioco delle coppie? Capito? C'era tutta la scoperta della televisione commerciale. No, vabbè, ma c'era Tra moglie e marito con Marco Columbro, c'era Fantasia, Cesare Cadeo, c'era Smaila con Help, c'era Gino Rivieccio, mi ricordo lì Toffolo tutti in famiglia, Mike Buongiorno, il grande Mike, Beast, il pranzo è servito. Fantastico. Allora noi ti salutiamo Paolo, ricordiamo Paolo Ruffini e Claudia Campolongo per uno spettacolo per passare una serata in allegria, 80 voglia di 80 al Teatro Parioli di Roma fino al 16 maggio. Ti salutiamo con quello che è stato il mito degli anni 80. E sulle note di Madonna arriviamo fino a Trento, sì, perché a Trento c'è un film festival, addirittura la 58esima edizione, in programma fino al 9 maggio. Ma è il primo festival ecosostenibile dal mondo, 108 proposte, con un festival diretto da Maurizio Nichetti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vi preparate a questa grande kermesse, perché io leggo 125 film selezionati tra 340 iscritti, 6 anteprime, 56 opere nelle sezioni Orizzonti and Alpinist e Terre Alte. Insomma, 159 proiezioni. Tutta Trento proietta film in questo periodo. Partiamo con le proiezioni. Il primo film è quello sull'avventura, disavventura dei fratelli Messner e poi via via tutte le nostre opere che vengono davvero da tutto il mondo. È un festival internazionale riconosciuto a livello internazionale come il più importante del settore. Quindi insomma sabato sera la serata clou, quella lì che riguarda la disavventura dei fratelli Messner, sì, nella famosa scalata dove Nanga Parbat, dove uno dei due, il fratello più piccolo, morì. Purtroppo sì. Ci sarà anche lui, Reinhold Messner? Credo che sia fuori Italia in questo periodo, perché non abbiamo avuto, ci saranno gli attori del film, ci saranno, c'è il regista, insomma il film viene presentato in concorso, lui credo che sia, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma credo che sia in Tibet. Allora, per intanto introdurre l'atmosfera di montagna, sentiamo un attimo. Lassù nelle montagne. Ho sentito Maurizio Nichetti, no? Ci portiamo intanto alla tematica del festival. Ovviamente le montagne, le Dolomiti descritte così non sono poi l'Everest assassino dei fratelli Messner o di Aria Sottile, no? La montagna va rispettata perché, è come dicono tutti quelli che vengono qui, va affrontata con molto rispetto, con molta attenzione, con molta paura, perché può essere uno scenario anche di pericolo. Però ovviamente noi parliamo di una montagna che si può vivere, che può dar da vivere, dove si possono collocare ancora delle come dire, collettività che assolutamente vivono nel rispetto dell'ambiente. Voi fate anche degli incontri, no? Assolutamente, sono tavole rotonde, spettacoli teatrali. Per esempio, una delle serate più attese, proprio stamattina abbiamo dovuto cambiare sede e spostarla in un auditorium di 800 posti perché era già esaurita con giorni d'anticipo, è un incontro con Mauro Corona e Giuseppe Cederna, che parlerà proprio del sacro e del dissacrante in montagna, cioè come avvicinare la montagna con un rispetto quasi religioso e come invece profanarla con delle imprese che non sempre tengono conto della natura, tengono conto di una certa etica con cui andrebbe affrontata sempre la natura. E io mi ricordo quando ero scout c'erano proprio delle regole precise, no? I fiori si lasciano lì dove sono, non si colgono. Quelle sono le regole. No, gli scout sono terribili. Sì, ormai oggi siamo arrivati a parlare dei ghiacciai che si ritirano, per cui le problematiche si sono allargate oltre ai fiori. Purtroppo sì, purtroppo dall'epoca della nostra gioventù si sono allargate, però magari un pochino di rispetto, nel senso di non sporcare la montagna, di non portare anche bicchieri di plastica, ma portarsi dei bicchieri che si possono lavare, no? Cioè c'erano tutta una serie di piccole regole stupide. Le problematiche sono molto grandi, perché per esempio abbiamo una serata sull'Himalaya e verrà trattata proprio da grandi esperti come Dimberg, Nives Meroy, insomma gente che viene a trattare il tema. È giusto andare in montagna con un tour operator, perché di fatto abbiamo dei film che mostrano delle colonne di centinaia di persone che salgono salgono sulle cime più alte accompagnati dal, come sembra, da una guida turistica. Ecco, questo modo di andare in montagna come se fosse una scampagnata anche nelle cime più pericolose, più alte, negli scenari più incredibili, è chiaramente un modo diverso di vivere un ambiente che non ha niente a che vedere con l'eroismo e come dire, il rispetto con cui i primi esploratori raggiungevano queste vette inviolate. Certo, ma poi questo è poi il tema, come le dicevo, appunto, di Aria Sottile, il famoso romanzo, no? Anzi, una storia vera che descrive una drammatica spedizione sull'Everest proprio di questo tipo. Allora, Maurizio Nichetti, direttore artistico del Trento Film Festival 2010, la 58esima edizione di questo festival ecosostenibile sul cinema di montagna fino al 9 maggio a Trento. Grazie Maurizio. Grazie a voi, saluti. Arrivederci. Ciao. Per che cosa lo faresti, bel leone, dillo? Per un frutto, una poesia, lo faresti, brillo? Come posso mai tentarti, dimmi tu dolore? Per che cosa lo faresti tu con me l'amore? Cacao, cacao, coco, coco. Diciamocelo, a un certo punto ci sono dei momenti della vita, no? In cui uno è un po' triste, sta lì che basta un cioccolatino di quelli buoni, una pralina, un po' di cacao, che la vita diventa subito più dolce o magari più amara, dipende se vi piace fondente o dolce. E noi andiamo all'assalto alle cioccolaterie, perché domenica c'è proprio questo in tre province: Belluno, Cuneo e Modica. E a proporlo sono proprio le camere di commercio di Belluno, Cuneo e Ragusa. Ferruccio Dardanello, buongiorno, presidente. Buongiorno. Di Union Camera. Che cosa succede in queste tre città? Ma innanzitutto a queste tre città mandiamo un appello ai golosi di tutta Italia di unirsi in una giornata che segna per noi un momento esaltante ed importante per la valorizzazione ulteriore di un grande prodotto che l'agroalimentare italiano propone al mercato, che è il cioccolato. Quindi il domani, 2 maggio, Cioccolaterie Aperte sarà il primo grande slogan che vedrà 80 cioccolaterie artigianali che si aprono con le loro emozioni, che il cioccolato sa in qualche modo ingenerare da sempre, ai cittadini per poter offrire in ogni angolo del nostro paese, in queste tre realtà, ma sono già molte altre le realtà italiane che vogliono aggiungersi a questo processo, quelle che sono le peculiarità che il cioccolato sa offrire alla nostra quotidianità, al nostro modo di fare, ai nostri momenti particolarmente felici che solitamente il cioccolato sa in qualche modo ingenerare. Ma poter avere domani mattina la possibilità di entrare in queste cioccolaterie, di trovare tutte quelle tipologie di cui anche nella vostra redazione in qualche modo oggi manifestate delle preferenze, credo che sia una cosa straordinaria. Rendiamo questa giornata una giornata dolce per gli italiani, golosi di tutta Italia, unitevi, può essere questo lo slogan che noi lanciamo da questa nostra iniziativa, e sono certo che il prossimo anno le cioccolaterie non saranno più soltanto le tre di Belluno, di Ragusa e di Cuneo, ma credo che in ogni angolo del nostro paese vi sia qualcuno che si avvicinerà a questa galletteria, come diciamo noi in Piemonte, galletto è proprio il sinonimo della golosità, per poter godere, io dico, di questo prezioso frutto, di questo cibo degli dèi che è diventato il cibo di tutti i giorni, proprio per regalarci di nuovo delle giornate serene. Ringraziamo allora Ferruccio Dardanello, il presidente di Union Camere, grazie di essere intervenuto qui a Cartellone. Ricordiamo Belluno, Cuneo, Modica, 2 maggio, assalto alle cioccolaterie, insomma, per renderci la vita un pochino più dolce e meno amara. E adesso invece parliamo di arte, perché arriva a Roma la prima grande retrospettiva dedicata a Giacomo Favretto, da 110 anni a questa parte, ed è intitolato Giacomo Favretto, Venezia, fascino e seduzione. La mostra presenta fino all'11 luglio al Chiostro del Bramante le opere più significative del maggiore pittore veneto dell'Ottocento, Paolo Serafini, curatore della mostra, al microfono della nostra Adriana Fracchia. È la prima monografica dedicata a Giacomo Favretto, uno dei maggiori esponenti dell'Ottocento italiano, da 111 anni a questa parte. Ecco, un evento quindi abbastanza straordinario. Assolutamente, infatti Favretto è il più grande pittore veneto della seconda metà dell'Ottocento, uno dei più grandi dell'intera pittura italiana, e non aveva mai avuto occasione di avere una mostra monografica perché la maggior parte dei suoi dipinti sono custoditi gelosamente in collezioni private, e quindi c'è stato un lungo lavoro di censimento delle opere prima e poi di convincimento dei proprietari a prestarle per la mostra, e finalmente è la prima volta che possiamo presentare al pubblico una panoramica esaustiva della sua produzione. Ecco, in cosa consiste esattamente la grandezza di Favretto rispetto ad altri pittori di quel periodo? La grandezza di Favretto consiste nel fatto che è il vero autore del rinnovamento della pittura veneziana della seconda metà dell'Ottocento. Ancora negli anni 70 dell'Ottocento, mentre i Macchiaioli già, diciamo, erano circa 10 anni che erano andati avanti verso la ricerca del vero, invece la pittura veneta ancora rimaneva abbastanza legata agli elementi di accademia e alla pittura di storia. Favretto, di colpo, con l'uscita a Brera nel 1873 dei due dipinti La lezione di anatomia e La moglie di un pittore ingelosita, cambia immediatamente e completamente e repentinamente l'impostazione pittorica della scuola veneziana, e un critico come Boito immediatamente segnala: ci sono dei novellini eccellenti in Veneto che probabilmente rinnoveranno la pittura e la porteranno, la traghetteranno dalla situazione statica nella quale si trova finalmente alla pittura moderna. Ecco, una vita breve e una produzione limitata, ma anche un grande successo tra i suoi contemporanei. Sì, Favretto era un pittore ambitissimo e conteso da principi, re, aristocratici. La regina Margherita ogni volta che andava a Venezia visitava il suo studio, e tutte le opere che lui presentava alle pubbliche esposizioni a partire dal Sorcio del 78 venivano immediatamente vendute, anche quelle per il mercato inglese e per il collezionismo oltremanica venivano immediatamente vendute. Un pittore chiaramente dalla produzione ridotta, perché muore giovanissimo a soli 38 anni, e quindi i quadri grandi compiuti sono assolutamente in numero limitato. In questa grande mostra noi riusciamo a presentarli praticamente tutti, e quindi il pubblico potrà avere una panoramica completa della sua produzione e poter realmente capire chi è Giacomo Favretto. Immagino che sia stato un lavoro lungo e faticoso quello di rintracciare tutti i dipinti più significativi di questo grande artista. Sì, un lavoro molto lungo che è iniziato ben 8 anni fa, quando io lavoravo al catalogo generale di Luigi Nono, che è un altro pittore veneto, e pian piano che trovavo i suoi quadri nelle collezioni private trovavo anche quelli di Favretto. Molti erano conosciuti solo dalle fonti, e attraverso lunghe ricerche di archivio, molti viaggi e anche alcuni suggerimenti da parte di altri collezionisti che sapevano del mio lavoro, siamo riusciti finalmente a trovarli tutti, e quindi il pubblico potrà veramente vedere una panoramica completa della pittura veneziana degli anni 80, 70 e 80, e soprattutto avere prima di tutto la piacevolezza di scene molto comprensibili al pubblico anche in una prima lettura, e poi anche la volontà di scoprire e il piacere di scoprire un artista che per noi studiosi è una riscoperta, ma per il grande pubblico è assolutamente una scoperta. La mostra segue un percorso cronologico? Sì, la mostra parte dagli esordi all'Accademia, dove si vede proprio la distanza fisica e concettuale delle opere giovanili di Favretto rispetto a quelle di Grigoletti e Molmenti, che sono i suoi maestri. Poi passa per la Sala Grande degli anni 70, dove ci sono tutte le opere più famose che lo rendono immediatamente popolare, quali il Sorcio di Brera, stampe di libri, le frutte, il grande banco dell'otto della collezione Marzotto. Poi c'è una sala dedicata all'unica opera di paesaggio che Favretto realizza e alla quale fanno da corona gli altri artisti che a Venezia operano nel paesaggio negli anni 70-80. E poi c'è la sala dedicata al grande quadro Vandalismo di Brera, che vince il premio Principe Umberto nell'80 e che traghetta il pittore verso le sale successive, che sono una dedicata al revival settecentesco con capolavori assoluti tutti appartenenti ai musei e che testimoniano l'attenzione all'inizio degli anni 80 a Venezia per le scene di gusto settecentesco e la riscoperta di Tiepolo. E poi c'è l'enorme salone, che è proprio l'apoteosi del pittore degli anni 80, dove ci sono tutte le opere di grandi dimensioni che lo rendono famoso e conteso da tutti, e che sono alcune delle novità proprio assolute anche per gli studiosi, non solo per il pubblico, perché ci sono dipinti artisti che vengono esposti per la prima volta nella loro storia, e cito uno fra tutti, la grande Susanna e i due vecchi del Museo di Budapest, che per la prima volta dal 1899 ha lasciato il suo museo ed è venuto in Italia. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Potete riascoltare la puntata sul sito www.radio24.it. Un buon primo maggio a tutti da Elisabetta Fiorito.